il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Noi italiani siamo fatti così, ci appassioniamo e scopriamo uno sport solo quando qualcuno comincia a vincere in quello sport. E per esempio noi che poco sapevamo di nuoto abbiamo cominciato a entusiasmarci grazie alle imprese di Federica Pellegrini. Ma chi ha veramente segnato l'inizio del nuoto italiano è un'altra atleta, anche lei veneta, che ha interrotto la sua carriera consegnandosi alla leggenda a soli 19 anni e sicuramente avrebbe raggiunto livelli molto più alti di quelli che ha già raggiunto con le sue prestazioni. Bene, stiamo parlando di Novella Calligaris, la prima italiana a avere conquistato un record mondiale il giorno che vinse gli 800 stile libero ai campionati del mondo di Belgrado nel 1973. Novella Calligaris, campionessa del mondo degli 800 metri stile libero femminile, medaglia d'oro col tempo di 8:52.97, nuovo record del mondo. Quella di Belgrado fu veramente un'impresa per Novella Calligaris. Il nuoto italiano non aveva fino allora prodotto nessun risultato di rilievo. Anzi, l'Italia portava ancora il lutto per una terribile tragedia avvenuta solo 2 anni prima dell'esordio di Novella. E lo scrittore Francesco Zarzana ci racconta della tragedia di Brema. Era il 1966 e un aereo Lufthansa con il meglio della nazionale di nuoto italiana si schiantò sul suolo tedesco per una manovra sbagliata del pilota a causa del maltempo durante appunto l'atterraggio a Brema. È una tragedia dimenticata, la nazionale italiana di nuoto per la prima volta faceva un grande meeting dove l'Eurovisione portava il nuoto nelle case degli italiani, tutta una serie di incastri del destino, beffardi cambiamenti di programma, condizioni meteorologiche avverse hanno tolto la vita a 7 giovani vite di 7 ragazzi, 3 ragazzi e 4 ragazze della nazionale dai 16 ai 20 anni. E così il nuoto italiano che già era fermo ha una ulteriore battuta d'arresto dopo quella tragedia, fino a quando nel 1968 arriva una ragazzina che ha 13 anni e inizia a gareggiare con risultati inaspettati. Si chiama Novella Calligaris, pulce per suo padre perché è piccolina, è alta 1,60 m, pesa meno di 50 kg, è piccola ma ha una volontà di ferro. Nata a Padova nel 1954, nuota nella storica società Rari Nantes Patavium, viene allenata da Costantino Dennerlein, da tutti detto Bubi. Bubi Dennerlein era un napoletano di nascita, ex nuotatore, e forse il primo allenatore di nuoto italiano con una levatura tale da essere conosciuto anche all'estero. Abbiamo cercato di lanciare il nuoto che all'epoca, cioè quando io nuotavo, era effettivamente piuttosto arretrato, grazie a me anche per il fatto che ho frequentato molte volte campi internazionali, per cui ho cercato di trarre tutto l'utile che si poteva trarre da altre nazioni. Eh sì, Bubi Dennerlein ha una missione importante perché deve svecchiare il nuoto italiano e riportarlo ai livelli internazionali. Infatti frequenta i convegni più aggiornati all'epoca come l'American Swimming Coaches Association e il risultato è che diventa uno dei pochi ad avere capacità tali da poter trasformare un giovane in un campione. E questo è il caso di Novella, della quale parla in un articolo. Aveva un carattere di ferro. Sopportava dei carichi di lavoro impressionanti senza mai lamentarsi. L'ho seguita a Padova nei primi 3 anni. Poi, quando sono diventato allenatore della nazionale italiana maschile, spesso la convocavo per i collegiali insieme ai ragazzi. Non si è mai risparmiata. Possedeva una grande capacità di resistere alla fatica. Riusciva a fare anche 3 sessioni di lavoro al giorno, arrivando a 15-18 chilometri. La sua corporatura minuta è stata per lei uno stimolo, forse non un handicap. And wounds still linger there. The long could stand. find another moment. Funny, I don't even care. As you turn to walk away, as the door behind you closes. E questa tredicenne esile, ma dalla tempra eccezionale, fa tesoro degli insegnamenti del suo allenatore Bubi Dennerlein. Quando lui chiede sacrificio, lei risponde con una propensione eccezionale alla disciplina e all'impegno. I risultati non tardano e lui la porta alle Olimpiadi di Città del Messico. Ripone così tante speranze in questa tenace tredicenne da considerare questa esperienza molto utile. In un articolo la Caligaris ricorda quelle Olimpiadi come un evento magico. Per me era come Disneyland. Non avevo il concetto dell'agonismo, anzi, quando fu il mio turno di fare la gara, mi misi a piangere, dissi: io non ci vado lì sotto a far tutta la sfilata. Mi sentivo proprio come Alice nel Paese delle Meraviglie. E se in Messico lei non ha ancora trovato lo spirito agonistico necessario, basta un anno per cambiare le carte in tavola. Così nel 69 Novella ottiene il suo primo record europeo ai campionati italiani estivi. Pochi giorni dopo e la storia si ripete. Partecipa agli europei giovanili a Vienna, vince le sue prime medaglie: bronzo nei 400, argento negli 800 stile libero. Trascorre qualche settimana e ci risiamo. Primatista europea dei 1500 metri a Roma. Chiude il 69 con 10 titoli conquistati. E in un articolo Mario Pescante, famoso dirigente sportivo, condivide i ricordi di quella ragazzina minuta dai capelli corti. A prima vista dava un'immagine di fragilità, poi nella piscina era un piccolo gigante che ha dato grosse soddisfazioni al nuoto italiano. Insomma, il piccolo gigante Novella Caligaris sta imparando anche molto velocemente. Impara per esempio che una gara non è fatta solo di velocità. Capisce quali sono i segreti per ottimizzare la prestazione in vasca, tipo concentrarsi al meglio, non farsi prendere dalle emozioni. Insomma, più passa il tempo e più si trasforma in una professionista. A 15 anni Novella può iniziare a considerarsi sempre meno una promessa e sempre più una certezza. Novella Caligaris è la prima italiana che riesce a regalare le prime soddisfazioni internazionali al nuoto. Ma intanto stiamo seguendo la crescita di Novella, che in brevissimo tempo si trasforma in una grande atleta. Ha due punti di forza: una grinta eccezionale e una nuotata perfetta, perché grazie agli insegnamenti di Bubi Dennerlein lei acquisisce una tecnica natatoria eccellente, la sua bracciata è pulita, precisa e sopperisce a un fisico non certo statuario. Però Novella è una ragazza di 14 anni e quindi in qualche modo è un adolescente che attraversa un periodo della vita assolutamente complesso. Insomma, ci ricordiamo tutti della nostra adolescenza. E così non dobbiamo stupirci che lei, di fronte alle prime interviste, alle prime domande magari prevedibili, non abbia la diplomazia necessaria per trattare con la stampa. Insomma, ha delle risposte pepate che diventano famose, basta poco per farsi bollare dalla maggior parte dei giornalisti come una acida rompiscatole, e tanto che addirittura le dedicano una specie di riconoscimento ironico, cioè il premio limone. La cosa è talmente risaputa che la si sente anche nei notiziari dell'epoca. Contrusa e scorbutica, Novella non sempre riesce simpatica, ma con la sua bravura ha riacceso l'interesse degli italiani per il nuoto. Beh, a me piace una sportiva che non fa da ufficio stampa di se stesso come molti sportivi oggi, che sono loro alla ricerca di giornalisti benevoli, anche perché lei sa rispondere alle provocazioni in un solo modo: vincendo. Siamo nel 70 e a Barcellona ci sono i campionati europei e lei arriva alle finali dei 200, 400, 800, 4% stile libero. Vince addirittura un bronzo proprio negli 800. Nel 71 è la volta della Germania dell'Est, dove lei si confronta con le atlete di quel paese che sono considerate fortissime. In quell'occasione migliora i suoi record nei 400, 800 e 1500. Ma è l'anno dopo che Novella ha un vero e proprio exploit, perché sono passati 4 anni dalle Olimpiadi di Città del Messico. Questa volta siamo a Monaco di Baviera. Lei ha 18 anni e sono in pochi a credere in lei, perché a Monaco ci sono le americane, ma soprattutto le gigantesche tedesche dell'est. Ragazze che arrivano da un paese dove il doping è l'ingrediente fondamentale dell'allenamento, spesso all'insaputa delle stesse atlete, che sono le prime vittime di questo atteggiamento totalmente spregiudicato di quella federazione. Insomma, quando le ragazze entrano in vasca, nessuno si aspetta che Novella possa conquistare due bronzi negli 800 stile libero, nei 400 misti, e addirittura la medaglia d'argento nei 400 stile libero, dietro a una grandissima, l'australiana Shane Gould, che ha dominato le gare olimpioniche per molti anni. Ultimi 50 metri, Novella Caligaris in quarta corsia, in seconda posizione, attaccata alla sua sinistra da Gudrun Wegner, mentre alla sua destra c'è la Rothamber, che non sembra più in grado di resisterle. Vedete ora nella parte alta del teleschermo, sull'estrema destra, la Gudrun, ma imprendibile, mentre al centro avanza molto bene Novella Caligaris, che forse riesce a conquistare la medaglia d'argento. Sarebbe un risultato clamoroso per il nuoto italiano. Intanto Shane Gould ha vinto, medaglia d'oro per Shane Gould, medaglia d'argento per Novella Caligaris, che ha preceduto la Gudrun Wegner. Medaglia d'argento per Novella Caligaris, uno dei risultati più prestigiosi. Per il nuoto le Olimpiadi di Monaco significano una cosa sola, un solo nome: Mark Spitz. Vince 7 medaglie d'oro in quell'Olimpiade, con un risultato che verrà battuto solo anni dopo da Michael Phelps, di cui abbiamo già parlato. Nonostante il momento assolutamente glorioso che Spitz vive a Monaco, il nuotatore americano nota la piccola atleta italiana, ne segue le imprese e in un'intervista le dedica un pensiero molto importante. Che io vinca non è una novità. La vera rivelazione dell'Olimpiade è quell'italiana piccolina. Beh, che il grande Mark Spitz riesca a accorgersi di Novella Caligaris la dice lunga sulla nostra ragazza. Infatti tra Novella e Spitz, allora 22enne, nasce un'amicizia sincera, come quelle che si formano tra i giovani che hanno in comune una passione. I due si danno anche un appuntamento, però quando arriva il giorno Novella riceve solo un biglietto in cui Mark manda a dire che non può presentarsi. Eh sì, perché a Monaco l'ebreo americano Spitz diventa un obiettivo, perché nel villaggio olimpico si sta per compiere una terribile tragedia. Good afternoon. I'm speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, 8 or 9 athletes of the Israeli team are being held prisoner. Il 5 settembre del 1972 un comando di Settembre Nero, un'organizzazione terroristica palestinese, irrompe nel villaggio olimpico. Dopo aver ucciso subito 2 atleti israeliani, ne prende in ostaggio altri 9. Ci sono lunghe trattative e il mondo rimane col fiato sospeso, e me li ricordo bene quei momenti e quelle immagini. E poi la polizia tedesca decide di intervenire, ma qualcosa va storto e il risultato dell'azione è un massacro. Muoiono tutti gli ostaggi israeliani, muoiono i terroristi e anche un poliziotto, e Novella assiste ignara alla tragedia. Avevo finito le gare, ma in virtù dei miei risultati potevo rimanere al villaggio per seguire l'atletica. Ho visto tutta la scena dalla finestra, perché la zona riservata all'Italia era accanto a quella di Israele. I fedain sembravano uomini mascherati, quasi un gioco. Io avevo 18 anni, non avrei mai potuto immaginare cosa stesse accadendo. Lo seppi solo al mio rientro in Italia. Stiamo parlando della grande nuotatrice Novella Caligaris, prima italiana ad avere stabilito un record mondiale, la prima a conquistare una medaglia olimpica in una disciplina che per tradizione apparteneva a altre nazioni. L'Italia non è mai stata forte nel nuoto, tranne la Pellegrini, ma prima tranne la Caligaris. Alta 1,63 m per 48 kg, questa piccola nuotatrice padovana, detta la Pulce, come la chiamava il padre, è riuscita nell'intento di avvicinare l'Italia a uno sport solitario e faticoso come il nuoto, uno sport che, come dice lei stessa, può essere di grande insegnamento. Io ricordo sempre che insegnare a nuotare un bambino è assicurargli la vita. E la vita Novella deve averla imparata molto bene grazie al nuoto. Dopo l'incredibile risultato di un argento e 2 bronzi nella travagliata Olimpiade di Monaco, lei si prepara a cogliere il nuovo anno con 2 grandi eventi. Nel 73 si inizia subito con la Coppa Latina, dove vince 6 ori. Poi approda all'appuntamento sportivo più importante, i campionati mondiali di nuoto, che in quell'anno si tengono a Belgrado, che oggi è capitale della Serbia, ma allora era sotto la presidenza di Tito la capitale della Jugoslavia. È partita la finale degli 800 metri stile libero femminili. Novella Caligaris è in terza corsia. Novella arriva a Belgrado piena di grandi speranze e di aspettative, anche perché si è preparata molto bene assieme al suo allenatore, che è sempre Bubi Dennerlein. È cresciuta, l'esperienza di Monaco le ha fatto capire che la grinta può più di tutto, se vuole davvero può farcela. Inizia a gareggiare il 4 settembre, 200 misti, terzo tempo in batteria, e in finale il podio, il gradino più alto, va alla statunitense Kathy Heddy. Nella notte tra il 5 e il 6 prima della gara dei 400 misti ha un ascesso a un dente, soffre molto, notte insonne, non sarà questo a fermarla. Il giorno dopo arriva in finale e vince la medaglia di bronzo. Poi 400 metri stile libero, un'altra medaglia di bronzo. E poi arriva il 9 settembre, l'ultima gara, l'appuntamento definitivo, quello con gli 800 metri stile libero. Novella Caligaris, ancora in vantaggio nei confronti del passaggio del record mondiale, sempre seguita da Joas Berger, terza Kina Rotammer, quarta Gudrun Wegner. A metà gara Novella Caligaris in testa. Intanto Klaus Di Biasi poche ore prima ha conquistato l'oro con i tuffi dalla piattaforma, quindi gli italiani a Belgrado si sentono già appagati. Ma non è finita qui, adesso è il momento della finale, 800 stile libero. Lei è sul blocchetto della terza corsia. Insieme a lei, nettamente favorite, gareggiano l'americana Jo Harsberger e la gigantesca tedesca orientale Gudrun Wegner. Ma già a 200 metri dalla partenza Novella in testa con una nuotata velocissima. A metà gara tutti pensano che a questo ritmo lei finirà per crollare, ma Novella continua. 650 metri, Novella Caligaris, Joas Berger, poi Gudrun Wegner, poi Narelle Moras. E ora con mezza vasca di ritardo c'è Kina Rotammer. E lei continua a volare sull'acqua e il tifo si fa più sicuro, pieno di speranza. La ragazzina di Padova sta continuando una corsa irriducibile, folle, a un ritmo che tutti pensano che non sarà in grado di tenere, verso il traguardo. 700 metri, mancano 100 metri alla conclusione. Novella Caligaris, ancora 2 secondi di margine di vantaggio sul primato mondiale ed ha ancora un buon vantaggio su Joas Berger. A Belgrado lei sta migliorando il record di categoria. Pensate che a metà gara aveva superato di 3 secondi il record dei 400 e proprio per questo tutti pensano che crollerà. Sarà uno sprint davvero incredibile e lei vuole stupire tutti. Le sue concorrenti sono almeno 3 metri dietro di lei. Un grosso evento nella storia del nuoto italiano. Novella Caligaris a 50 metri dalla conclusione. Ancora 50 metri e lei non molla. Quello che sembrava un ritmo folle la sta portando verso il successo. È la prima volta che un italiano conquista una medaglia d'oro nei mondiali di nuoto. Novella Caligaris è campionessa del mondo. Novella Caligaris, medaglia d'oro e record del mondo. Il tempo è 8:52.97, che è anche il nuovo record mondiale. Al secondo posto c'è l'americana Jo Harsberger e al terzo arriva la tedesca Gudrun Wegner. Sul podio la piccola Novella sembra quasi scomparire a confronto delle due rivali, ma lei è lì sorridente sul gradino più alto. Quando parte l'inno italiano sa che ha compiuto un'impresa memorabile. L'Italia si scopre vincente anche nel nuoto e in Novella Caligaris ha trovato la sua campionessa mondiale. L'anno dopo, nel 74, lei vince ancora un argento e un bronzo agli europei per poi chiudere la sua carriera. Non ha ancora 20 anni. Ero stanca, corrosa. Lo sport è emozione e io non ne provavo più. E poi ero stufa di vedere le mie avversarie che al posto del rossetto usavano le lamette da barba. Novella è riuscita in un'impresa che si scoprirà poi era veramente falsata in partenza, perché molte delle atlete più dure da battere, le tedesche dell'est, venivano allenate a forza di doping. Eppure Novella è riuscita a batterle, anche se in molti casi ha dovuto subire qualche secondo e terzo posto ingiusto, perché dietro a delle persone che erano più frutto di esperimenti spregiudicatissimi di laboratorio che non di allenamento. Dopo di lei abbiamo dovuto aspettare fino al 2009 per ottenere un'altra medaglia d'oro nel nuoto femminile, naturalmente con Federica Pellegrini. Quello che ha fatto Federica io non sono riuscita a farlo, un po' anche forse perché la mia carriera è stata molto più breve, ma soprattutto perché lei è molto più brava di me. 11 record del mondo, io ne ho fatto uno solo. È un'atleta straordinaria che ha dato all'Italia tantissimo e che noi dovremo sempre ringraziare, qualunque sia il futuro, che mi auguro comunque ci possa dare altre soddisfazioni. Beh, Federica Pellegrini è senz'altro una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi, la più grande nuotatrice italiana, però a me piace pensare che Novella Caligaris abbia raggiunto risultati in un periodo dove tutto le era contro. Intanto, lo abbiamo detto, le concorrenti dopate, donne che si facevano la barba invece che riscoprire la loro femminilità. Ma poi c'erano anche i costumi, che erano scomodi, pesanti, non aderivano al corpo. Imbarcavo tanta acqua. Infine mio padre trovò in Svizzera i primi costumi di licra, con i bordi che si attaccavano alla pelle. Ma costavano uno sproposito. Così ogni volta che era necessario, eccoci a rimettere la colla per tenerli aderenti. Insomma, tempi veramente difficili dove bisognava essere dei super campioni per farcela. Non è un caso se nell'86 Novella Caligaris è entrata nella International Swimming Hall of Fame. E oggi lei è passata dall'altra parte, è una grande giornalista sportiva, proprio una di quelli che lei non amava tanto quando era piccola, che le avevano dato il premio limone. Ma la sua passione resta il nuoto e la speranza è sempre quella che questo sport possa diventare il motore di un'Italia sana e competitiva. Credo che lo nuoto sia cambiato moltissimo da quello che ho vissuto io, nel bene e nel male. Nel bene perché c'è stata un'evoluzione, c'è più interesse, il nuoto è diventato una disciplina che compete con l'atletica per essere regina dei giochi olimpici. Stile libero, una definizione veramente azzeccata per una ragazza libera che ha saputo, grazie alla sua determinazione, superare barriere fisiche piuttosto evidenti e anche la scorrettezza di un mondo nel quale il doping la faceva da padrone. E poi una crescita personale notevole, perché oltre ad essere diventata una bellissima e gentile donna, è una professionista di valore, una giornalista sportiva che ha lavorato sicuramente molto meglio di quei giornalisti che intervistavano lei e che poi le davano robe tipo il premio limone. Ci sono storie di persone che questo colpo d'ala hanno saputo darlo. Nel caso di Novella Caligaris, un colpo a filo d'acqua con una nuotata perfetta che le ha dato e ci ha dato grandissime soddisfazioni. E se avete delle altre storie sulle quali volete che noi ci si soffermi, fatelo, scrivete a ilfalcoelgabbiano@radio24.it oppure venite a cercarci, a cercarmi nei miei social, nei social della trasmissione, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi.